Scusa, Leonardo, guarda un momento a me. Una cosa semplice, facilissima. Termometro. O termometro. Facilissimo, no? O termometro è una cosa di vetro, mercurio. Sì. Tutti i numerini dei servono per vedere se c'è la febbre. Ci metto qua su. Bravo. O in bocca. Inizia qua la diretta Wombat con un po' di ritardo, ma sempre meglio di come è andata mercoledì scorso. Grande tragedia per Bricobaldo, che in diretta non è riuscito ad andare, ma esclusivamente a mandare il suo numero di telefono, che nel caso qualcuno non l'avesse scritto, non avesse fatto in tempo a scriverselo, ve lo ripeto, è 333-4456-7329. Chiamate, vi risponderò senza alcun indugio. Nel frattempo un po' di Pusherman, e nel frattempo ditemi se si sente bene, se i volumi sono a posto, perché altrimenti io smatto. Scrivetelo sul pad, che il pad appositamente creato lo trovate su pad.resap.net/p/diretta wombat. Ci accedete direttamente dalla home del blog postawombat@insiberia.net. Questa invece è la mail se volete interagire con me. Mi raccomando, fatemi sapere, c'è almeno due persone che sono pronte a scrivermi, Coso e Mario. Un grande saluto a voi. Bene, mi dicono che ci sono, i volumi sono ok e quindi allora posso iniziare. Finalmente i problemi tecnici sembra che si siano un minimo fermati. La puntata di oggi, brevemente, vi introdurrò agli argomenti. Gli argomenti sono prettamente sanitari, andremo a parlare con diverse persone. Andremo a parlare con diverse persone che ne sanno molto più di noi. Uno di questi è Gavino Masciocco, l'abbiamo già sentito, igiene e salute pubblica, uno dei guru toscani ma anche italiani sul tema. Avremo la voce di una giovane dottoressa, medico di base, Cecilia Francini, che lavora alle Piagge, dove hanno messo su un ambulatorio che spacca. Mentre non ci fermiamo qua, perché avremo anche la voce di Luca Albertosi, che invece è un sindacalista, rappresentante toscano del USI. Infine concluderemo con un lungo approfondimento insieme a una persona che è un medico, anche lui genetista. Abbiamo fatto una lunga intervista. Perché? Intanto perché è un genetista e quindi ci spiega nel dettaglio di che cosa si tratta questo coronavirus, un po' tutte anche le ultime news, e inoltre è una di quelle persone che analizza i dati dei tamponi che vengono fatti in Italia e quindi ci potrà sicuramente spiegare con esattezza quello che sta succedendo. Io intanto la prima cosa che volevo dirvi è che oggi è l'8 aprile, siamo già più di un mese, a un mese di quarantena. Ma a me balzava all'occhio che oggi è la giornata internazionale dei Rom e Sinti e quindi noi ricordiamo Johann Trollmann, il pugile Sinti che ridicolizzò il nazismo. Sto leggendo una pagina di Cannibali e Re, di Cronache e Ribelli, è un almanacco edito da Cannibali e Re. Per ogni giorno ci sono delle date significative, ci sono delle storie, delle piccole storie, delle piccole grandi storie, nel senso che non fanno parte della storia con la S maiuscola, ma sono altrettanto, se non di più, significative, perché raccontano la vita delle persone comuni. Jon Trollman proprio comune non era. Perché? Perché ci vuole coraggio a salire sul ring con la scritta Gipsy, zingaro, cucita sui pantaloncini, ma bisogna essere dei pazzi fulminati. Bisogna essere dei pazzi fulminati o degli idealisti straordinari per farlo nella Germania di Hitler. Forse Jon Trollman era entrambe le cose. Nato a Hannover nel 1907 in una famiglia sinti, questo ragazzo fu soprannominato Rucheli, albero nella sua lingua, per il suo fisico possente e la chioma piena di ricci. Dal 1926 divenne un pugile professionista e portò sul ring uno stile di combattimento che nessuno aveva mai visto. Movimenti rapidissimi al centro dello quadrato, raffiche di pugni intervallate da giochi di gambe, insomma, un Muhammad Ali ante litteram, un modo di affrontare gli avversari che gli costò il biasimo della stampa, che era solita rivolgersi a lui additandolo come lo zingaro. Da qui nacque l'idea di Johan di mettere quella scritta sui calzoncini per dimostrare che andava fiero delle sue origini. Origini che gli costeranno dapprima l'esonero dalla squadra olimpica del 28 e poi le attenzioni del nazismo. Con l'ascesa di Hitler e la promulgazione delle prime leggi razziali, Trollman salì sul ring per rivendicare la cintura dei medio massimi che il regime aveva tolto a Erich Seeling, pugile ebreo. In un incontro a Berlino, Rucheli affrontò l'arianissimo Adolf Witte, prendendolo letteralmente a pugni. I giudici tentarono di rinviare il match, ma l'insurrezione del pubblico consentì a Johan di prendere il titolo, che venne poi revocato, però, 8 giorni dopo, dalle autorità naziste. Titolo che Trollman provò a recuperare affrontando Gustav Weder. La federazione, per non farlo vincere, gli impose di combattere senza utilizzare il suo stile, rimanendo al centro del ring e tenendo la guardia bassa. Rucheli rispose presentandosi sul ring con i capelli tinti di biondo e il corpo cosparso di farina, ridicolizzando l'idea del pugile ariano. Perderà l'incontro e anche la licenza, costretto a combattere in una FARC e a fare il cameriere per sopravvivere, per non provocare ritorsioni verso la propria famiglia, dovette accettare la sterilizzazione e abbandonare moglie e figlia. Dopo una breve parentesi in cui fu richiamato al fronte nella Seconda Guerra Mondiale, fu internato prima a Neuengram, dove fu costretto a combattere ogni sera per far divertire l'SS, e dopo un rocambolesco cambio di identità a Wittenberg. Qui, riconosciuto da Emil Conselius, ex pugile dilettante, ora capo, Trollman venne costretto ad affrontarlo in un ultimo incontro. Ancora una volta, però, Rucheli non subì in silenzio la sua sorte e mandò al tappeto il borioso sfidante. Sarà il suo ultimo atto di ribellione. Il giorno dopo Cornelius lo ucciderà. Dopo la guerra, Johan sarà dimenticato, come altri 500.000 rom e sinti, vittime del Porraimos. Solo dopo 60 anni, la federazione pugilistica tedesca chiederà scusa alla sua famiglia. Cannibale e Re, Cronache ribelli. Questo voleva essere anche un pensiero un po' oggi, la giornata mondiale del popolo Rom e Sinti. Sappiamo benissimo che queste le difficoltà che noi stiamo attraversando, forse probabilmente loro le attraversano con un'intensità di gran lunga maggiore. Noi restiamo a casa, loro sono blindati nei campi, spesso piantonati dalle forze dell'ordine per far sì che nessuno esca, quindi non ci scordiamo che ci sono sempre persone ben più vulnerabili di noi. Io direi che vi mando il primo pezzo e ci risentiamo subito dopo che il banco del mutuo soccorso ci ha fatto sentire questo. drifting like a country stream. Non mi rompete. Lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco. Se io forse sto sognando un viaggio alato sopra un carro senza ruote, trascinato dai cavalli. 59 penne. Ascoltaci streaming, il podcast. Ascolta le repliche, accedi al nostro blog. Torniamo nella diretta di quest'oggi, 8 aprile, ormai è quasi un mese che stiamo andando tutte le sere in diretta, tra le 7 e le 21. Io ho iniziato un po' tardi e finirò sicuramente molto più tardi del dovuto. Naturalmente tutto questo sarà possibile ritrovarlo nei podcast dalla pagina wombat.noblogs.org. Si parla di sistema sanitario questa sera e lo si inizia a fare a partire da un comunicato che è stato pubblicato sulla pagina di resistenzefirenze.noblogs.org. Il comunicato recita così: il sistema sanitario pubblico, un corpo già malato. Il quadro ci viene presentato come emergenziale e dovuto a un'eccezionale pandemia. Sicuramente la situazione è eccezionale, ma insiste su un corpo già provato da decenni di maltrattamenti e scelte che ne hanno ridotte le capacità di resistere. Come ben sappiamo, un'influenza contratta da un corpo sano non ha gli stessi effetti che su un corpo già malato ed indebolito, e il nostro sistema sanitario pubblico sano non lo era di certo. Da giorni si parla infatti, nel caso in cui i contagi non vengano fermati, di collasso del sistema sanitario nazionale. Non ci sono medici ed infermieri sufficienti per fronteggiare l'emergenza, non ci sono abbastanza posti letto e attrezzature nei reparti come la terapia intensiva, mancano sufficienti scorte di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e non che quotidianamente attraversa le strutture sanitarie. Ma cosa è successo in questi anni per indebolire il nostro sistema sanitario al punto da portarlo a rischio collasso? Per scoprirlo dobbiamo tornare al 1978, anno che rappresenta una sorta di spartiacque nella storia, non solo in campo sanitario, dividendo un prima, nel quale si registrava l'espansione del welfare universalistico, tratto comune dei governi liberaldemocratici e socialdemocratici europei, affermando il principio secondo cui alcuni servizi fondamentali come l'istruzione e la sanità dovessero essere sottratti ai meccanismi di mercato e quindi essere garantiti dallo Stato, e invece anche un dopo. Il dopo prende le mosse all'inizio degli anni Ottanta con l'elezione di alcuni leader ultraconservatori, Thatcher in Gran Bretagna, Reagan negli Stati Uniti nel 1980, e con l'affermarsi del neoliberismo. Le politiche neoliberiste si applicano anche alla sanità, che diventa terreno di conquista nel mercato a livello globale, come si legge in un articolo di The Lancet del 2001. Negli ultimi due decenni la spinta verso riforme dei sistemi sanitari basate sul mercato si è diffusa in tutto il mondo, dal nord verso sud, da occidente verso oriente. Il modello globale di sistema sanitario è stato sostenuto dalla Banca Mondiale per promuovere la privatizzazione dei servizi e aumentare il finanziamento privato attraverso il pagamento diretto delle prestazioni. Questi tentativi di minare alla base i servizi pubblici, da una parte, rappresentano una chiara minaccia all'equità nei paesi con solidi sistemi di welfare in Europa e in Canada, dall'altra costituiscono un pericolo imminente per i fragili sistemi dei paesi con medio e basso reddito. Troppi erano, già allora, gli indizi per non capire qual era la direzione che si voleva far prendere la sanità italiana, quello del privato e delle assicurazioni. Del resto il messaggio contenuto nella lettera di Trichet e Draghi indirizzata al governo italiano nell'agosto 2001 era inequivocabile: riforme radicali per privatizzare su larga scala servizi e professioni. Quando l'assessore alla sanità della Toscana, senza ombra di rammarico e scuse, affermò già oggi tanti si rivolgono a misericordie pubbliche e pubbliche assistenze per visite ed esami a pagamento, nota del redattore, visto che il pubblico espelle dal suo circuito un numero enorme di persone, non garantendo la tempestività delle prestazioni. Questa era la Repubblica del 3 ottobre 2015. Il governatore Rossi non può dirsi pienamente soddisfatto. Missione compiuta. Sono stati adottati provvedimenti che hanno spinto le persone a rivolgersi a servizi a pagamento anziché ai servizi pubblici, producendo così diseguaglianze, sfiducia, malumore e rabbia. Negli ultimi 10 anni sono stati soppressi 70.000 posti letto, 756 reparti ospedalieri e molti piccoli ospedali sono stati chiusi. Dai Cergas, Università Bocconi a Milano. Nello stesso lasso di tempo si registra un taglio di fondi pari a 37 miliardi di euro in Italia. In Italia ci sono 3,2 posti di letto per 1.000 abitanti contro gli 8 della Germania e i 6 della Francia. Per la sanità pubblica spendiamo 119 miliardi l'anno, il 20% in meno della Francia e il 45% in meno del Regno Unito. Mentre scendeva la spesa pubblica, aumentava quella dei cittadini, che nel 2009 coprivano il 21% del totale e nel 2017 arrivavano a quasi un quarto, il 23,5%, il 46% in più rispetto alla media europea. Quasi dovunque le assunzioni si sono bloccate di fronte a una mancanza di circa 56.000 medici e 50.000 infermieri, riportata dalla regione. Dal 2009 al 2017 il sistema sanitario nazionale ha perso oltre 46.000 unità di personale dipendente, con un calo del 6,7%. La riduzione ha interessato i medici, meno 8.000 unità, la cui età media oggi è tale da far prevedere un collocamento in pensione di 2 medici specialistici e 8 medici di famiglia al giorno nei prossimi anni, con ridotta possibilità di ricambio per carenza di laureati e in particolare di specializzati. A questo depauperamento ha contribuito non poco l'introduzione del numero chiuso nelle università e nelle scuole di specializzazione. La contrazione del personale ha riguardato anche gli infermieri, meno 13.000 unità, nonostante la loro presenza sia già molto inferiore al resto d'Europa. Il rapporto alla popolazione, circa 5,6 infermieri ogni 1.000 abitanti contro i 12,9 della Germania e i 10,2 della Francia. E rispetto ai medici, 1,4 infermieri ogni medico contro circa 3 in Francia e in Germania. La mancanza di una seria politica del personale sta mettendo in ginocchio l'intero sistema sanitario. Oggi quasi una famiglia su 2 rinuncia alle cure a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata. Nel 41,7% dei nuclei familiari almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria. I cittadini inoltre pagano di tasca propria oltre 500 euro pro capite l'anno, mentre nell'ultimo anno al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie in nero. Questi erano dati estratti da una ricerca del Censis. Le tappe legislative fondamentali che con le successive riforme seguono questo percorso pluridecennale sono 4. La prima è la già citata legge 833, con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e la creazione delle unità sanitarie locali. Il secondo è il decreto legge numero 502 del 1992, che avvia la regionalizzazione della sanità, istituisce le aziende sanitarie locali ASL e ospedaliere, e per rispondere alla crescente pressione finanziaria introduce una concessione di assistenza pubblica in cui la spesa sociale e sanitaria deve essere proporzionata all'effettiva realizzazione delle entrate e non può più rappresentarsi e non può più rapportarsi unicamente con le unicamente all'entità del bisogno. Il terzo passaggio è il decreto legislativo 229 del 1999, anche noto come riforma Ter, che conferma e rafforza l'evoluzione in senso aziendale e regionalizzato e istituisce i fondi integrativi sanitari per le prestazioni che superano i livelli di assistenza garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale. Infine, con la riforma del titolo V della legge costituzionale numero 3 del 2001, la tutela della salute diviene materia di legislazione concorrente Stato-Regioni. Lo Stato determina i livelli essenziali di assistenza, i LEA, e le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione dei servizi sanitari, nel finanziamento delle aziende sanitarie. Il sistema sanitario non può essere ridotto a una fabbrica di prestazioni. Il sistema sanitario deve tutelare e promuovere la salute delle persone e attrezzarsi per affrontare adeguatamente l'epidemia delle malattie croniche, che non sono poche, e della subepidemia e della multimorbosità. Nonostante si viva in un mondo dominato dalle patologie croniche, nei luoghi di cura si pratica una medicina quasi esclusivamente per acuti. All'alba del XX secolo persistono i modelli del XIX secolo, scrivono Rozzini e Tabucchi. È necessario per questo un profondo cambiamento, un cambio di paradigma basato sulla sanità d'iniziativa, prevenzione e lotta alle diseguaglianze socio-economiche. Di malattie croniche si ammalano e ne muoiono molti di più, le fasce più disagiate della popolazione. Supporto all'autocura, presa in carico a lungo termine dei pazienti da parte dei team multiprofessionali e multidisciplinari composti da medici di famiglia, infermieri e specialisti. Continuità delle cure e più tempo dedicato alle relazioni tra professionisti e pazienti. Integrazione sociosanitaria anche. Il cambio di paradigma richiede un forte rilancio delle cure primarie e dei servizi territoriali. È il momento di pretendere un sistema sanitario che metta nuovamente al centro l'individuo e la salute pubblica e che non si occupi solo dell'acuto, ma dello stato di salute inteso come fisico, psichico, sociale ed economico. È il momento per ridisegnare la nostra società in senso comunitario, solidale e mutualistico, dove la salute sia al centro delle scelte politiche per lo sviluppo economico, cosa che fino ad ora non è mai stata fatta, preferendo portare avanti scelte dettate solamente da interessi a profitto. Inquinamento atmosferico, luminoso e acustico in cambio di urbanizzazione selvaggia o, come nel caso dell'aeroporto della Piana o del TAV, di costruzioni di grandi opere inutili, allevamenti intensivi dove l'uso massiccio di antibiotico e la cattiva qualità del mangime sono all'ordine del giorno, industrie e raffinerie che rilasciano tossine nell'aria o nell'acqua, appestando le zone limitrofe, come nel caso ormai tristemente noto dell'Ilva di Taranto. È il momento di pretendere un sistema sanitario incisivo nel denunciare che questo modello economico ci sta rendendo più fragili e più malati. Ripeto, questo era il comunicato di Resistenze, si trova alla pagina resistenzefirenze.blogs.org. Resistenze è un'assemblea che è nata per dar sostegno agli spazi sociali fiorentini, agli spazi liberati, soprattutto inizialmente è nata per fronteggiare l'emergenza degli sgomberi, però poi si è data una forma più definita e si sta muovendo in svariate direzioni, fra l'altro, tra le quali appunto sul blog troviamo gli ultimi comunicati che troviamo, sono questi. Ve ne è uno che parla del turismo, è stato letto qualche giorno fa, domenica, proprio il gigante dai suoi piedi d'argilla, l'economia turistica vista dalla quarantena, e quindi stanno producendo diverso materiale. Ma noi andiamo avanti, diamo un'occhiata al trend, ai trend di oggi. Si parte dal sito del Sole 24 Ore per tirare fuori i dati più significativi. C'è stato un leggero incremento dei nuovi casi rispetto a ieri. Ieri c'era stata una grossa discesa, c'erano positivi ieri 880 persone in più rispetto al giorno precedente, invece oggi siamo a 1195. Mentre andiamo un po' a vedere, sono stati effettuati oggi però molti più tamponi, circa oggi, no, non è il 30 marzo, oggi sono stati effettuati, se non mi sbaglio, eccoci qua, no. Sono stati effettuati 8 aprile 51.680 tamponi con un percentuale di positivi del 7,4%, quindi 3.836 persone sono risultate positive quest'oggi. 51.680 tamponi non erano mai stati fatti, è il numero più alto di tamponi fatti in assoluto. Pensa, fino a, appunto, ieri, ieri l'altro erano 30.000, comunque nei giorni scorsi si sono attestati fra i 30.000 e all'incirca 30-35.000 tamponi fatti. Le regioni più colpite, noi magari facciamo un breve focus sulla Toscana. In Toscana vi sono 6.379 positivi con un più 3,34%, ma andiamo nel dettaglio a vedere Firenze. A Firenze, pensate, ci sono ben attualmente 1.871 persone positive. 1.881 persone positive rispettivamente. Allora, Toscana, eccoci qua. In Toscana, a Firenze c'è stato un aumento del 2,04% rispetto a ieri. Un dato che a me interessava andare a vedere, poi successivamente lo affronteremo anche con gli ospiti, è quello il tasso di letalità, perché il tasso di letalità è molto più alto di quello che si pensava quando si vedeva questo virus arrivare dalla Cina. La fascia più colpita è quella fra gli 80 e gli 89 anni, sono circa il 40% delle persone colpite sono queste, in questa fascia di età. Poi rallenta leggermente, però fondamentalmente questa è la fascia più colpita ed è anche la fascia dove la malattia è più letale, è letale per circa per più del 30% delle persone. La letalità totale è del 12,2%. In Europa la Spagna ci ha superato in modo abbastanza netto, perché conta circa più di 2.000 casi rispetto all'Italia. Andiamo a guardare i grafici, gli Stati Uniti stanno strabattendo tutti con quasi 400.000 contagiati, con una curva che è in continua impennata, mentre le curve europee stanno piano piano prendendo a decrescere, ma stanno rallentando. La situazione cinese invece è stabile, loro hanno circa 80.000, fra gli 80 e gli 82.000 contagiati, però è un numero che è rimasto stabile da diversi giorni. Nel mondo c'è una cosa da notare, e naturalmente tutti questi dati sono da prendere con le molle, perché si basano sulla quantità di tamponi fatti, e quindi non è che ci sono tante persone che sono asintomatiche, che hanno contratto, si dice circa il 10% della popolazione anche italiana, però quello che si può vedere da questi dati è che in Italia c'è una letalità altissima. siamo superati in letalità esclusivamente dall'Algeria. Noi abbiamo, come dicevo, una letalità del 12,2%. E realmente solo l'Algeria ci supera con il 13,15%. Poi le altre invece sono ben più basse rispetto a noi. Non lo so se questo si può spiegare col fatto che la nostra popolazione è piuttosto anziana. Bando alle ciance, andiamo a sentirci l'intervista a Gavino Masciocco. Ne abbiamo già sentito ai microfoni di Ray Wombat, è un illustre mente, è un po' lunghetta, io ve la lascio tutta perché dice cose interessanti, quindi ci sentiamo fra una mezz'oretta. Al telefono di Radio Wombat abbiamo Gavino Masciocco, esperto in igiene e sanità pubblica. Buonasera. Buonasera a voi. Intanto come va? Non c'è male. Si lavora a casa, si lavora tanto e quindi non ci si annoia, devo dire. Ecco, noi l'abbiamo già chiamata qualche settimana fa, però torniamo un po' sul tema, in quanto insomma riteniamo una delle persone più informate in materia di igiene e sanità pubblica. E quindi la prima domanda che le faccio ad oggi, che è mercoledì 8 aprile, un po' un'impressione su come è stata gestita fino ad ora questa emergenza da un punto di vista sanitario e di prevenzione. Ma discorsi potrebbero essere fatti su varie sfere. C'è una sfera, diciamo, molto più ampia, che è quella che riguarda, diciamo, la preparazione del mondo alle epidemie, e da questo punto di vista, diciamo, il mondo non era preparato, nonostante avesse avuto dei forti stimoli a prepararsi, perché negli ultimi anni epidemie di grande importanza c'erano state, l'ultima delle quali, quella di Ebola in Africa nel 2014-2015, ma se torniamo indietro nel tempo ci abbiamo quella del 2009, un'influenza cosiddetta suina del H1N1, poi avevamo avuto la SARS nel 2002-2003 e poi abbiamo avuto l'AIDS che è ancora presente nel mondo e fa milioni di morti. Tutte queste epidemie sono state dovute a quello che si chiama salto di specie, cioè dovute al passaggio di un virus dagli animali all'uomo, e l'adattamento all'uomo e poi la possibilità che l'infezione si trasmettesse da uomo a uomo. Ecco, questo elemento è stato in larga parte dovuto ai cambiamenti drammatici che ha avuto il nostro pianeta negli ultimi secoli, negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici, la deforestazione, eccetera, che ha messo sempre più la presenza di megalopoli che invadevano, diciamo, il terreno delle foreste e mettevano a contatto più facilmente gli animali con gli uomini. Ecco. Questo, e quindi è stato un effetto di un cambiamento, di un drammatico cambiamento ambientale provocato dall'uomo, a cui la natura poi si è ribellata infliggendoci queste epidemie, di cui noi ancora non siamo in grado di fronteggiarle, perché in parte c'è una generale disattenzione all'ambiente, come avviene per esempio riguardo ai cambiamenti climatici, in parte perché i sistemi sanitari da diverso tempo sono più orientati a essere fonte di profitto che essere strumenti di protezione della salute della popolazione. Questo è la prima questione di carattere generale. Quindi, anche se devo dire l'OMS nell'ultimo anno aveva prodotto un documento molto chiaro che prevedeva, diciamo, la, la possibilità di una pandemia da un virus respiratorio e diceva alle nazioni di prepararsi, ecco, neanche questo documento è stato preso in considerazione e quindi noi ci siamo ritrovati, come il resto del mondo, impreparati, completamente impreparati. Questo è il primo, ecco, sicuramente, il primo punto. Sicuramente sulla preparazione dei sistemi sanitari non si può assolutamente dare torto, e sul modo in cui hanno reagito invece, e in particolare, ecco, in particolare io vorrei avere delle indicazioni sulla reazione da un punto di vista sia ospedaliero che soprattutto territoriale. Ecco, allora, una volta che è scoppiata questa epidemia e c'è stato i primi a, diciamo, ad avere ritardo furono, come sappiamo, i cinesi, perché il primo caso avviene il primo di dicembre, poi ovviamente su un caso uno non poteva ovviamente fare scattare l'allarme, ma già al 15 dicembre avevano capito che i casi erano molti di più, che provenivano quasi tutti dall'aver frequentato il mercato del pesce di Wuhan, e soltanto alla fine di dicembre il governo cinese avvisa l'OMS, quindi, e questo era, diciamo, il primo ritardo cinese. Dopodiché a Wuhan, nonostante ci fosse l'avvertimento di un'epidemia in atto da parte di un virus che era già stato a quel punto isolato ed era un virus, un coronavirus che è molto simile alla SARS, tant'è vero che il medico che lanciò l'allarme disse: guardate, sta tornando la SARS, e poi, come sapete, questo medico fu arrestato e poi è morto anche. Però la cosa gravissima che è successa a Wuhan è che i dirigenti politici della città e amministrativi, nonostante a quel punto sapessero bene che circolava un virus, che era un virus simile alla SARS, che stava dilagando, decisero di intervenire soltanto il 23 di gennaio, quando era già iniziato il capodanno cinese e da Wuhan se ne erano andati via 5 milioni di persone. E quindi questo qui è stato, diciamo, l'effetto che ha fatto deflagrare l'epidemia, che se fosse stata, diciamo, intercettata un po' prima, probabilmente non avrebbe prodotto tutti i danni che ha prodotto. Dopodiché il virus si è propagato in tutto il mondo, come abbiamo visto, e ha trovato giusto appunto i sistemi impreparati. Basta vedere la questione delle mascherine, insomma, ecco, questo è forse l'indicatore il più importante dell'impreparazione, perché uno strumento del costo di pochi centesimi è diventato una cosa rarissima, e siamo ancora dipendenti dall'importazione dall'estero a prezzi esorbitanti, per dire che bastava avere una riserva di mascherine, questo avrebbe già dato un segno che i sistemi erano almeno in parte allertati, invece neanche questo è successo. Poi sulla gestione è difficile dire, nel senso che è evidente che c'è stata una sottovalutazione, perché già alla fine di gennaio tutti a quel punto sapevano cos'era successo in Cina. Si bloccano gli arrivi con gli aerei e le partenze con gli aerei, e nel frattempo non ci si attrezza minimamente ad affrontare la situazione. Quindi la situazione è precipitata quando sono avvenuti i primi casi il 21 e il 22 di febbraio. A quel punto ci si è mossi con un mese di ritardo, ecco, questo intanto è da dire. E ci si è mossi pensando unicamente a rafforzare le terapie intensive, perché questa era la più grossa preoccupazione, cioè il sistema sanitario riuscirà ad affrontare questi casi di polmonite molto gravi che hanno prodotto in Cina quei 3.000 morti, ci si è resi conto che gli ospedali non erano pronti, ma non erano pronti neppure a fare un'altra cosa, forse la cosa più importante, era quello di separare i pronti soccorso, i casi respiratori dal resto, che è la prima cosa da fare quando ci si trova di fronte a un'epidemia in cui vanno immediatamente separati i casi sospetti, anche quelli ovviamente diagnosticati, da tutto il resto. E qui abbiamo avuto in Lombardia, diciamo, due focolai esplosivi, veramente esplosivi, che sono la prima ragione del fatto che in Lombardia si è avuto questa catastrofe, e sono stati l'ospedale di Codogno, quello vicino a Lodi, che però fu subito chiuso e fu creata la zona rossa, e l'altra invece, quello di Azzano Lombardo, che invece fu lasciato aperto e che ha prodotto la catastrofe della provincia di Bergamo e anche di Brescia, per certi versi. Quindi l'attenzione è stata tutta concentrata sugli ospedali, nessuno ha preso in considerazione che i casi dovevano essere seguiti e segnalati e isolati nel territorio, si aspettava semplicemente che arrivassero i pronti soccorsi, con meccanismi veramente incredibili nei confronti dei pazienti che dovevano telefonare a centralini che non rispondevano. Insomma, è stata, diciamo, una cosa che è meglio metterci un velo pietoso, perché un livello di disorganizzazione del sistema come quello che è avvenuto è stato, diciamo, la principale causa della catastrofe che è sotto gli occhi di tutti. Dopodiché è scattato un meccanismo, quello della distanza sociale, che è giustissimo, dell'isolamento, eccetera, che però, diciamo, è anche il più facile, perché dal punto di vista organizzativo dai l'ordine di stare a casa, tutti a casa, e questo è giustissimo, però è un meccanismo, diciamo, che non elimina la necessità di avere un'organizzazione sanitaria che svolga il suo compito, e questo è invece quello che non è avvenuto. Soltanto in un decreto del 9 di marzo si dice di fare le USCA, che sono queste unità speciali di continuità assistenziale, che dovrebbero andare a casa dei pazienti a fare il tampone, a vedere il paziente, le condizioni del paziente, ma anche questa cosa ci ha messo molto tempo a essere attuata, non è stata attuata in tutte le regioni, ecco. Quindi se si chiedesse cosa abbiamo fatto nei confronti dell'epidemia, abbiamo fatto una cosa giusta, quella di forse anche con un po' di ritardo, ma questo sono il segno del poi, giusto, non sottolinearlo troppo, l'ordine di stare a casa, che è un ordine che però sembra più scaricare sui cittadini la responsabilità del contenimento dell'epidemia, senza fare poi quasi niente per controllarla attivamente attraverso l'organizzazione sanitaria. È mancato completamente qualsiasi intervento, organizzato di prevenzione della sanità pubblica. Basta pensare a quello che è successo nelle RSA, nelle case per anziani, insomma. Questa doveva essere una delle primissime cose che doveva fare un'organizzazione sanitaria, andare, visto che si sapeva benissimo che le persone più fragili, quelle che morivano, erano gli anziani, la prima cosa doveva essere quella di mettere in sicurezza le RSA, cosa che non è stata fatta. Soffermandoci un po' sulla questione delle unità speciali che sono state formate, che lavoro dovrebbero svolgere queste unità? Dovrebbero ricevere la segnalazione dei medici di famiglia, i quali dicono guarda, io ho un paziente che c'ha la febbre, la tosse, secondo me è un paziente, un sospetto. E l'unità attrezzata con tutte che misure del caso, va a domicilio, sono un medico e un infermiere e fanno una visita, misurano il livello di saturazione dell'ossigeno, possono prescrivere una terapia e quindi questo è. Però come abbiamo visto ieri, abbiamo pubblicato un post di una dottoressa di Torino, della provincia di Torino, Elena Rubato, in Salute Internazionale, vedete, queste cose le ha fatte lei senza ricorrere all'USCA, perché probabilmente in Piemonte non le hanno attivate ancora, e lei si attrezza e va a casa con tutte le precauzioni del caso e fa le visite a domicilio, come dovrebbe avvenire. Questo è un articolo su Salute Internazionale, si chiama Medico di famiglia in prima linea. Esatto. Nell'organizzazione di una risposta, naturalmente tutte le regioni si sono mosse in modo leggermente diverso l'uno dall'altra, mettendo in campo strategie a volte anche molto diverse. Abbiamo visto regioni che hanno fatto ad esempio i test a tappeto, altre regioni invece che hanno preferito prendere altre vie. Qual è la direzione più giusta al fine di trovare le persone asintomatiche, seppur positive? Perché mi sembra che il nostro della questione sia questo, cioè il fatto che ci sono tantissime persone alle quali non è stato sottoposto il tampone o il test sierologico che non risultano nei dati, quindi l'epidemia potrebbe essere realmente molto molto più grande rispetto a quello che noi percepiamo. Dunque, allora, intanto c'è da dire che già oggi noi abbiamo quasi la certezza dei dati che ormai si stanno accumulando, di questi modelli matematici che tendono a confluire su un dato, cioè già oggi il 10% della popolazione italiana è contagiata. E quindi questo qui è il primo dato. E quindi il discorso del tampone è utilissimo per individuare tutti i possibili sintomatici, e quindi escludere che un sintomatico che ha un raffreddore o ha una qualsiasi sintomatologia respiratoria, compresi le persone che gli stanno accanto, siano testati. E quella è la politica che ha fatto non soltanto la Corea del Sud, ma è quella che ha fatto la Germania. Uno dei motivi per cui la Germania ha pochi morti è dovuto anche a questo. Domani pubblichiamo, professor Luz Internazionale, un post sulla situazione tedesca, che le spiegazioni del basso numero di morti che ha la Germania sono: uno, questa cosa qui, di aver fatto tantissimi tamponi all'inizio, e quindi hanno evidenziato subito le persone positive e le hanno isolate. Secondo, hanno avuto la fortuna che l'epidemia si è sviluppata tra i giovani, anche perché probabilmente, diciamo, la vita sociale degli anziani in Germania è diversa da quella degli italiani, che sono più coinvolti nella gestione familiare, quindi sono più a contatto con i figli, con i bambini, eccetera. Il terzo fattore fondamentale, anche quello, è che la Germania ha un surplus di letti di terapia intensiva e per loro non è stato minimamente un problema assistere le persone gravi. Ecco, questa è, secondo me, se uno dovesse oggi imitare un modello, è probabilmente quello tedesco. Ecco. Nota bene che in Germania, anche se non c'è come in Italia una diffusione di medici di famiglia, perché loro hanno un sistema, diciamo, diverso di accesso alle cure, una persona può scegliere, non ha un medico di fiducia, può scegliere tra andare da un medico generalista o a un medico specialista di volta in volta. Però lì i pazienti sono seguiti direttamente dal medico di famiglia, anche quelli positivi, il quale chiama poi lo specialista se ha bisogno di un accertamento, diciamo, più approfondito, e se ha bisogno di ricorrere alla specializzazione. Allora, tornando proprio ai medici di famiglia, in Toscana sono circa, io ho trovato dei dati dell'Istat che risalgono un po' al circa 2 anni fa, vengono registrati circa 3.500 medici di famiglia in Toscana, correggimi se è un dato esatto, sono sufficienti. No, ma sai, si fa molto presto a farlo, siccome c'è un rapporto di 1 a 1.000, siccome la popolazione toscana sono 3.600.000, va benissimo, 3.500. Che fra l'altro è anche uno dei rapporti più alti che c'è in Italia, ma sono sufficienti un numero tale? No, ma guarda, sono uguali, perché il rapporto ottimale è 1 a 1.000, quindi deve essere così, sono uguali in tutta l'Italia più o meno. Sono sufficienti per fronteggiare situazioni come queste e anche un futuro? Come dovrebbero essere riorganizzati? Anni fa erano state iniziate i progetti delle case della salute, tanto in Toscana quanto in altre regioni, poi si sono un po' perse. Sarebbero state utili oggi averle? Certamente, l'impostazione è quella, cioè la medicina di famiglia non può esistere più come, e devo dire questa esperienza sarà diciamo l'elemento che farà inevitabilmente cambiare l'organizzazione dei medici di famiglia, perché un medico da solo non riesce a reggere. I medici da soli cosa hanno fatto? Si sono blindati nei propri ambulatori e hanno fatto unicamente attività telefonica. Se uno lavorava in una casa della salute la cosa era molto diversa, come è successo per esempio a Firenze nella casa della salute delle Piagge, dove è stata costituita proprio un'organizzazione per fronteggiare l'epidemia con un filtro all'ingresso, con la possibilità, loro ancora prima degli USCA facevano visite domiciliari per vedere, per controllare i pazienti in gruppo, cioè la nuova medicina di famiglia avrà un futuro soltanto se avrà una sede unica, comune, se avrà dei gruppi multidisciplinari, medici, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti, eccetera, se farà una medicina proattiva, di iniziativa, se si occuperà di tutte le cose, ma in particolare oggi noi sappiamo che il vero problema sono i pazienti cronici, che guarda caso sono quelli che sono stati falcidiati dall'epidemia. Se fossero stati seguiti meglio e avessero avuto meno malattie e meno comorbidità, probabilmente sarebbero anche più sopravvissuti a questo evento terribile. E qual è il motivo per il quale non sono state poi costituite queste case della salute, nonostante tutte le pressioni, nonostante che tante persone come lei o tutti i gruppi che si occupano di salute globale abbiano spinto fortemente? Per due motivi. Uno, perché purtroppo la classe dei medici di famiglia, i medici di famiglia negli ultimi anni sono invecchiati, sono diventati poco sensibili all'innovazione, si sono chiusi a riccio per arrivare tranquillamente alla pensione. Questo è stato il primo motivo, quindi c'è stato un motivo quasi anagrafico che ha provocato questa resistenza, muro di gomma rispetto all'innovazione. Poi ci sono motivi, diciamo, politico-sindacali. I medici di famiglia hanno un certo ascendente nei confronti dei politici, perché i politici credono che loro godano di consenso e possono anche, diciamo, manovrare un po' di voti, che non è vero. Però il sindacato dei medici di famiglia è influente e quindi siccome il sindacato ha sempre visto come fumo negli occhi le case della salute e la sanità di iniziativa, sia a livello nazionale che regionale, perché gli altera gli equilibri, li costringe a dover collaborare con gli infermieri, li costringe a lavorare non dentro nei paraggi delle farmacie, ma dentro strutture pubbliche. Tutte cose che gli danno l'allergia al sindacato, e allora i politici, che anche questi sono tendenzialmente conservatori, che preferiscono farsi belli con i pronti soccorsi e lasciare abbandonata a se stessa la medicina di base, perché questo è avvenuto negli ultimi anni, grande inaugurazione di pronti soccorsi e via. Quando hanno saputo che un terzo della popolazione ogni anno passa attraverso i pronti soccorsi, hanno detto allora investiamo sui pronti soccorsi, così risolviamo anche i problemi della medicina di base, visto che ai pronti soccorsi ci arrivano la stragrande maggioranza delle patologie lievi, codici bianchi. Questo è il motivo, quindi un motivo diciamo quasi antropologico, la scarsa propensione all'innovazione da parte dei vecchi medici di famiglia, e motivi invece più di tipo di bottega politica. Ecco, tra l'altro proprio su questo ultimo punto mi ci vorrei un attimo soffermare, perché abbiamo sentito durante questi giorni la voce anche di alcune persone facendo parte dei sindacati di base, che fondano la loro azione sull'attivismo dei lavoratori, e denunciavano un po' questo, il fatto che molto spesso la politica riesce a influire talmente tanto nelle decisioni, sia a livello macro sanitario che poi anche nei singoli presidi e ospedali, da fondamentalmente stravolgere un po' tutte quelle che sarebbero decisioni sensate, e quindi loro si ponevano anche il problema di come riuscire a ribaltare questa situazione, come far sì che le decisioni vengano prese dalle persone che negli ospedali realmente ci lavorano. Io ad esempio, nell'esperienza che ho avuto in campo sanitario, mi sono trovato sì a lavorare all'interno di equip, in un lavoro di equip, però molto spesso questo lavoro di equip era giustificato semplicemente da questioni burocratiche, e nel senso che sui fogli c'era bisogno che ci fosse scritto questo e quest'altro, però poi le decisioni non venivano prese dall'equip, venivano prese da chi sta sopra, e immagino che nelle strutture pubbliche queste decisioni vengano prese dai politici. Come ribaltiamo questa situazione? Ma sai, questa situazione, cioè il rapporto tra politica e tecnici è una vecchia questione, che la politica debba assumersi le sue responsabilità nelle grandi scelte non c'è dubbio, è evidente, perché l'allocazione delle risorse è un fatto essenzialmente politico, la definizione delle priorità è un fatto essenzialmente politico, eccetera. Dopodiché c'è la scelta dei tecnici e di chi deve poi guidare la macchina. Con le leggi di riforma che ci sono state ultimamente si è creato un rapporto molto diretto tra il decisore politico e il responsabile tecnico, perché si è creato un rapporto fiduciario, nel senso che i direttori generali sono nominati direttamente dalla giunta regionale. E questo ha creato un rapporto fiduciario, nel senso che la scelta non si basa su un concorso pubblico, ma semplicemente su un rapporto fiduciario. Io scelgo questo perché considero la persona giusta che mi diciamo garantisce la realizzazione del mio programma politico. Allora, a questo punto la logica vorrebbe che chi viene scelto per un ruolo tecnico a questo punto abbia la piena autonomia, sulla base delle linee generali, di attuare questa cosa. Ecco, in realtà la politica ha continuato a invadere anche il campo della tecnica. Ecco, basta vedere cosa è successo con la riforma che c'è stata in Toscana dell'accorpamento delle ASL, che non è stata una scelta guidata dalla tecnica, ma è stata una scelta unicamente ideologica. Ecco. E quindi si pensava, si diceva, concentrando le ASL avremo dei risparmi, potremo risparmiare e con questa idea che non aveva dietro di sé nessuna prova di evidenza, si è stravolto completamente il sistema sanitario toscano, con le conseguenze che ci sono state in termini di efficienza, in termini di funzionalità e tante altre cose. Questo è comprensibile, però quello che volevo precisare è che molto spesso il direttore sanitario è talmente lontano dalle corsie degli ospedali o dai presidi dei medici di base da magari non accorgersi realmente quello che sta succedendo lì. Dunque, ecco, allora, dunque qui invece si entra proprio nella riforma, perché la riforma ha creato un livello di concentrazione del potere nelle mani del direttore generale, più che altro del direttore generale, perché poi lui c'ha, poi il direttore generale a sua volta fa delle nomine fiduciarie nel direttore sanitario e il direttore amministrativo, ma alla fine il vero chi comanda è il direttore generale. La riforma ha eliminato ogni livello intermedio di governo, così che per esempio i direttori di presidio ospedaliero o i responsabili di zona distretto nel territorio non hanno alcun potere, perché tutte le loro decisioni vengono prese a livello centrale da parte del direttore generale e di un'organizzazione molto complicata che sono i dipartimenti, su cui non sto a dilungarmi. È evidente che essendo organizzazioni di, come abbiamo visto, di 1,5 milioni di abitanti, come quella della Toscana Centro, in cui dal livello del direttore generale agli ospedali e ai distretti di Pistoia, di Prato, di Empoli, uno dovrebbe avere una conoscenza dettagliata di quello che succede, invece questa conoscenza non c'è, perché non c'è un livello intermedio che ha autonomia nel prendere le decisioni, si è tutto bloccato. Per concludere, io volevo chiedere quali sono, secondo lei, i punti di rivendicazione per poter arrivare a un sistema sanitario che torni a essere pubblico e accessibile, e qual è il ruolo che i medici devono rivestire in questa battaglia per un sistema adeguato. Dunque, primo c'è da fare un ragionamento proprio di carattere politico, in questo caso veramente politico. Allora, la prima risposta da dare è la politica vuole assegnare al Servizio Sanitario Nazionale funzioni di vero servizio pubblico per tutti i cittadini? Perché questa è la prima domanda da fare, da cui va risposto. E se si dice di sì, significa dare un finanziamento adeguato, perché noi sappiamo perfettamente che il finanziamento attualmente è inadeguato, basta confrontarlo con quello di altri paesi come la Francia, la Germania, loro spendono un terzo di più, e questa è la questione del finanziamento. Il secondo è il rapporto con il pubblico e il privato. Il privato deve essere competitivo col servizio sanitario pubblico, come avviene in Lombardia, oppure il servizio sanitario pubblico da sé non ce la fa, allora accettiamo che ci sia un secondo pilastro assicurativo che copre una serie di prestazioni di tipo specialistico e diagnostico, perché il Servizio Sanitario Nazionale a questo punto questa parte non la segue e si limita a garantire gli interventi quelli di maggiore importanza, la cura dell'infarto, l'intervento per un grave problema traumatologico. Ecco, queste sono le risposte che si danno. Se noi diciamo che il servizio pubblico deve garantire a tutti le prestazioni di tutti i tipi, lasciando al settore privato un margine che questo deve avere, perché i cittadini, se vogliono avere un settore privato, può essere convenzionato e va benissimo, va escluso però l'idea che si debba dare spazio a un settore assicurativo integrativo, che non è integrativo ma è sostitutivo, come si è fatto negli ultimi anni, per ragioni strettamente politiche. Ecco, questo è il primo elemento di carattere strategico che va definito. La seconda parte invece è più quella che riguarda l'organizzazione interna, ed è quella che riguarda il rapporto tra ospedale, territorio, prevenzione generale, prevenzione collettiva, eccetera. E anche qui noi sappiamo perfettamente che di fronte a un'epidemia che è quella di tutti i giorni delle malattie croniche, e di fronte a possibili ritorni di epidemie, come quella della Covid-19, che ci accompagnerà per un bel pezzo, noi dobbiamo fortemente rafforzare tutti i servizi di base, di prevenzione e di medicina di famiglia e di cure primarie. Questo è il vero, credo che poi tutti l'abbiano capito, che di fronte alle malattie croniche, ma anche di fronte alle epidemie, se non abbiamo una prima barriera forte di cure primarie, gli ospedali vengono immediatamente travolti. E qualcuno potrebbe avere la tentazione di dire: va bene, allora la prossima volta, per farci trovare preparati, abbiamo bisogno di 100.000 respiratori pronti a entrare in funzione. Ecco, questo sarebbe veramente il suicidio del sistema. Ecco, se uno pensasse che la preparazione significhi soltanto mettere in piedi in 24 ore gli ospedali da campo, ecco. I medici che ruolo hanno in questo? Devono mobilitarsi in modo diverso rispetto a come lo hanno fatto fino ad oggi? Dunque, allora, i medici, anche qui però c'è qualche fortuna, ecco, che quella classe di medici, a cui appartengo anch'io ovviamente, anzi sono ancora più avanti, sta andando tutta in pensione. Quindi noi, fortunatamente, noi abbiamo ora una situazione che non si era mai verificata nella storia della sanità italiana, dell'ingresso di giovani medici, ecco. E quindi è l'occasione veramente per stabilire delle strategie nei confronti delle quali i giovani medici sono disponibilissimi. Basta vedere questo fatto della nascita anche di questi gruppi di medici di famiglia legati al concetto di primary care, insomma. Quindi questa cosa questo cambiamento demografico, secondo me, può essere un elemento di speranza per il futuro, di avere un personale medico più attento, più naturalmente attento all'innovazione e a un'organizzazione nuova della sanità. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Strade senza uscita, le discese rapidissime, le imprese senza fine. Mi piacciono i lampi nelle notti scure, la paura del soprannaturale, partire alla ricerca di un tesoro che forse non esiste. Amo la glacialità della musica tonale, è un modo in cui non è capita, forse neppure da me. Che bello quando nel film vedi stravolti i valori della retorica hollywoodiana, e il negozio come spento, vedi almeno se sei venuto della tua vita bruciata. Bruciata. Abbia bisogno di grandi miti, superuomini eccezionali, e come Bono Vox si presti ad assumere questo ruolo, ironicamente, senza sputtanarsi, diventando miliardario. Vorrei che invecchiassero gli specchi anziché io. Siamo ancora in una candela, siamo liberi di ragionare, di non farci condizionare, di trascendere e di estremizzare. Mi piace tutto ciò che sembra. Anche la musica è migliore se c'è. Anche l'amore non esiste senza. Godiamoci una decade di decadenza. Apprezza chi invecchia dignitosamente, consapevole della sua curva discendente. Velocissime comunicazioni, virtualissime clonazioni. Ridley Scott ha avuto grandi intuizioni, troppi replicanti in televisione. Siamo ancora in una grande era, siamo liberi di ragionare, di non farci condizionare, di trascendere, di estremizzare. Mi piace tutto ciò che sembra. Anche la musica è migliore se c'è. Anche l'amore non esiste senza. Godiamoci una decade di decadenza. Una decade di decadenza. Torniamo in regia. Abbiamo sentito Gavino Maciocco, ottimo, ottimo intervento, e ci apprestiamo a sentire gli altri contributi. Mi fanno notare che i dati che ho letto dal sito del Sole 24 Ore sono poco affidabili. Sì, è vero, io lo davo un po' per scontato. Sono poco affidabili, come si diceva con Maciocco, con il professor Maciocco, proprio perché ogni paese, ma si può dire anche ogni regione, prende i dati dai tamponi, e i tamponi o i test serologici vengono effettuati in modo diverso. Non solo in ogni paese, ma in ogni regione. Tra l'altro, sì, la letalità dipende in buona parte, probabilmente dipende dall'età media delle persone. Si è detto che le fasce più colpite sono quelle fra gli 80 e i 90 anni, e quindi di conseguenza è chiaro che un paese con una maggioranza di abitanti in età anziana avrà una letalità maggiore. Quindi sono tutti dati che possono aiutare a orientarsi, ma sicuramente non sono precisi.

my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. Questa era Cecilia Francini da, dalla piaggia. Scusate. Allora, non siamo vicini alla chiusura, però una piccola cosa la volevo leggere prima di mandare ancora un'intervista. Andrò sicuramente molto molto lungo, quindi preparatevi a sopportare i pipponi ancora per un bel po', tanto il palinsesto in verità dopo questa diretta era vuoto, quindi mi prendo la libertà di usufruire di questo tempo. Allora, una cosa che volevo leggere è un appello che è girato un po' sul web e ci è arrivato anche per mail. È un appello comunicato dei detenuti reclusi e isolati nella palazzina dei semiliberi del carcere di Torino. E recita così: questo è il disperato appello e richiesta di aiuto che gli ospiti della palazzina delle semiliberi, oggi occupata da soggetti in articolo 21 per lavoro esterno, lanciano a tutti gli amministratori e tutori della salute e della vita altrui. Viviamo in un ambiente di circa 100 metri quadri, suddiviso in più camere, per un totale di 45 persone, due servizi igienici per tutti, e al pian terreno di questa struttura ci sono anche delle mamme con dei bambini innocenti, che continuano a essere rinchiusi. Alle nostre critiche disperate, condizioni assistono anche gli operatori della polizia penitenziaria, vittime anch'essi del totale menefreghismo istituzionale onnipresente e ancor più irritante. Siamo da giorni isolati a causa dell'accertamento della contaminazione da virus di un soggetto tra noi. Non veniamo visti da nessuno e nessuno ne parla. Ne parla per voler nascondere la realtà di un lazzaretto che lascerà alle spalle morti preannunciate e forse volute della più totale indifferenza. Pandemia, terza guerra mondiale, state a casa, ce la faremo, giuste considerazioni dal momento che attraversiamo, ma fatte solo esclusivamente per tirare acqua al proprio mulino. Allo stato attuale della nostra nella nostra palazzina permangono i semiliberi che si sono visti rigettare richiesta di licenza premio come previsto e disposto dal DPCM, scritto con l'apparente obiettivo di sfollare i carceri, a testimonianza di una non volontà di assicurare in un momento un momento di così altamente critico e rischioso la tutela della salute e della vita. Non privilegiano coscienza, sentimenti umanitari e ragionevolezza, termine quest'ultimo spesso adoperato in sede di formulazione delle sentenze di condanna, quali si presentano non poche incertezze e fatti e lati oscuri. Poltrona, autorità e potere è ciò che sovrasta ogni cosa, compresa la vita, eppure Cesare Beccaria, già nel lontano 1700, lottava contro la pena di morte e contro la tortura che a secoli di distanza trova diversa applicazione nelle condizioni psicofisiche che viviamo, massacrati e insopportabili. Massacranti ed insopportabili. Pure l'OMS e la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri consigliano, obbligano, sanzionano per effetto di direttive salvavita paradossalmente escluse e nascoste all'interno delle carceri bombe ad orologeria che coinvolgono figli, mogli, madri, fratelli angosciati dal cattivo e sempre più incerto futuro che ci aspetta. Ma dove sono finiti i diritti umani riconosciuti e sanciti dalla Costituzione di società e paesi che ancora oggi hanno il coraggio di autodichiararsi civili, industrializzati, sviluppati e anche democratici? Il razionale è fortemente discriminante. Oggi purtroppo si registra il primo detenuto morto per Covid-19 e forse il primo che hanno avuto il coraggio di rendere pubblico dopo tanti silenziosi casi. La situazione può precipitare in tutto il paese se dal carcere vengono a svilupparsi i cosiddetti contagi di ritorno. E allora perché non prevenire queste ecatombe attraverso provvedimenti più pro tempore? Almeno fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, magari attraverso l'ampliamento dell'applicazione dell'articolo 124 del decreto legge 18-2020 nei confronti di coloro che abbiano già dato prova di buona condotta nei confronti di chi gode di permesso premio con obbligo di permanenza presso il proprio domicilio o altro luogo di assistenza. Il nemico attuale è invisibile, imprevedibile e silenzioso per tutti, ma letale per qualcuno. Chi, potendo farlo, non interviene oggi, sarà suo complice in responsabilità soggettive e oggettive di esiti criminali contro la salute e contro la vita. Aiuto è ciò che chiediamo, aiuto è ciò che ci dovete. Già, è troppo tardi, fate presto. I detenuti reclusi e isolati nella palazzina dei semiliberi del carcere di Torino. Altro. Non possiamo fare altro che portare la nostra solidarietà a tutti i detenuti e le detenute che in questo momento, così come anche tutte le altre parti della popolazione che vivono situazioni di particolare fragilità, e noi probabilmente ci possiamo ritenere fra i più fortunati. Non perdo tempo, do la parola a Luca Albertosi, che è rappresentante del coordinatore regionale dell'USI Sanità. Ecco. Siamo al telefono con Luca Albertosi, che è il coordinatore regionale dell'USI Sanità. Buonasera. Buonasera. Benvenuto ai miei microfoni, è un piacere sentire la sua voce. Intanto le chiedo un po' la situazione. Lei lavora soprattutto nell'area ASL Nord-Ovest, quindi Massa Carrara, sì. Lucca, Livorno e Pisa. Qual è la situazione nella sanità in questo momento? Ecco, la situazione sta portando all'estremo, quasi all'esplosione, delle tendenze che sono comuni a tutta la sanità regionale in questi anni. Quindi sgombriamo il campo da possibili equivoci. Non ha senso dire che sia una normale influenza, fare del complottismo. C'è una grossa emergenza straordinaria dovuta a un virus aggressivo, tenace, terribile. E c'è una crisi in atto. Come ha reagito il sistema sanitario toscano a questa emergenza? Sì, ottima domanda. Perché? Perché ci sono delle tendenze che sono in atto da alcuni anni e la crisi le ha portate alla luce. Vi faccio alcuni esempi. Il sistema sanitario è stato retto ed è retto tutt'oggi dalla concertazione sindacale. Cioè c'è un accordo di fondo fra una dirigenza che molto spesso è vicina al Partito Democratico e i sindacati confederali. Questo sistema di concertazione è per tutto e in tutto protagonista di alcune cose che si sono verificate già, per esempio, l'estate scorsa. Crisi dovute al fatto che non ci fosse abbastanza personale, problemi dovuti al fatto che sono stati ridotti i posti letto, problemi dovuti ai carichi di lavoro, allo stress, alla tensione che vive chi lavora e che vivono i pazienti. Quindi questo sistema di cogestione, anziché risolvere i problemi, ci ha portato dentro la crisi attuale che è stata precipitata dal coronavirus. Ci sono alcune cose che per esempio notavamo prima dell'emergenza che oggi sono uno dei problemi. Vi faccio un altro esempio. Il sistema di concertazione che ho descritto prima, brevemente, ha confiscato il diritto di espressione di chi lavora. Cioè, una persona che lavora in sanità non può parlare, ha un rapporto con l'azienda per cui se parla viene sanzionato. Ora, se qualcuno dicesse il mio primario è un cretino, vabbè, lo si querela, no? Sarebbe anche nel diritto del primario di querelarlo. Però qui c'è qualcosa di diverso, cioè c'è un diritto di espressione che è stato tolto a chi lavora, quindi a chi è in corsia, in reparto, in laboratorio, conosce i problemi, li vive in tempo reale e ha le soluzioni, no? Non può dire niente e deve parlare quindi soltanto l'ufficio stampa della ASL, quindi degli amministrativi lontanissimi dalle corsie, vicinissimi ai vertici amministrativi, oppure le dirigenze sindacali. Le dirigenze sindacali che hanno concertato la sanità in questi anni, correndo ai ripari di tanti problemi che vengono fuori in un sistema complesso, in modi secondo noi sbagliati. Due, ad esempio, di questi modi sbagliati sono: uno, che sono state vendute delle assicurazioni per eventuali errori sul lavoro ad OSS, a infermieri, alle varie categorie, proprio dai sindacati. E questo ci sembra anche un modo di rinunciare a un ruolo di lotta, di controllo, anche di rivendicazione della dignità di chi lavora. Poi un'altra grande questione che lascia perplessi è che nel mentre si concertavano le diminuzioni nel sistema sanitario, nello stesso momento in certi contratti collettivi di categorie, tipo i metalmeccanici, ma non solo, è stato introdotto il welfare aziendale, cioè un modo per chi è contrattualizzato di accedere a dei servizi che la ASL, che il sistema sanitario o anche il sistema sociale dei comuni non garantisce più. E quindi da questi modi di gestire la sanità negli anni passati ricaviamo una serie di errori che rendono più pesante la situazione e che non bisogna ripetere, ecco, bisognerà cercare qualcosa di nuovo e dopo ne parleremo magari nella parte finale dell'intervista. Sì, certo, io intanto volevo chiedere una precisazione, perché stiamo parlando abbiamo parlato di personale in corsia, mentre a me sembra che rivesta un ruolo fondamentale ad oggi, ma ancora più che prima, senza togliere l'importanza che svolgeva e che ha svolto negli anni, ma sto parlando della sanità di base, quindi quella territoriale, l'assistenza ai medici di base, degli infermieri domiciliari. Quindi tutte queste cose riguardano anche l'assistenza domiciliare e territoriale di base? Ecco, il clima che sento io parlando con delle lavoratrici e dei lavoratori è di paura a due livelli, paura perché non hanno proprio i presidi, quindi non hanno le tute, non hanno le mascherine efficaci e c'è comunque in corso un'azione da varie parti per auto-organizzarsi e trovare dei presidi che dovrebbero essere forniti dai direttori, no, dalle ASL. Rossi ha parlato di milioni di mascherine e di presidi, però a quanto mi risulta non sono ancora arrivate. E quindi ci si auto-organizza per tutelare la salute, c'è paura di ammalarsi, c'è paura nel caso di tutta quella fascia di persone che non lavorano con un contratto della sanità, ma sono nel sistema sanitario, c'è paura di alzare la testa, di rispondere, di far valere i propri diritti, che sono quelli di lavorare in sicurezza, di non infettare le persone che ha intorno, di vivere. E la sanità di base sì, è colpita, con le chiusure degli ospedali, lo svuotamento degli ospedali di cittadini più piccoli. La sanità di base ha un ruolo fondamentale e si sente ancora di più il fatto che sia sguarnita, che sia quasi l'ultima ruota del carro. Sono stati svuotati degli ospedali e succedono cose di questo tipo. Sei mesi fa a Carrara si parlava di abbattere, se avete capito bene, radere al suolo un enorme edificio di 7 piani che è stato per tanti anni l'ospedale. Un edificio che è stato riammodernato qualche anno fa, ma sembrava che gli ultimi 2 piani non fossero la norma dal punto di vista sismico, e quindi c'è stato un dibattito, proposte, bocciate, polemiche. Oggi fortunatamente non è stato raso al suolo e verrà riutilizzato per mandarci dei malati di Covid, a quanto pare. Quindi ci sono state delle tendenze contraddittorie, confuse, perché è difficile comunque governare dei sistemi complessi come la sanità toscana. Certamente dagli errori che sono stati fatti possiamo capire cosa non fare. Faccio un esempio di un altro errore che secondo noi non va fatto, cioè non si può guardare indietro. Vengono in questo momento di difficoltà delle proposte che lasciano perplessi, cioè statalizzare il sistema sanitario. Viene detto in vari modi, ma non è secondo noi la soluzione, perché il sistema sanitario è malato anche di burocrazia, di centralismo. C'è stato uno scontro per anni tra regioni e Stato, in parte c'è ancora, ma non è che portando tutto sotto lo Stato o sotto, diciamo, un controllo regionale centralizzato le cose andranno meglio. Non ci dimentichiamo che tanti anni fa nella sanità si sentiva fortissimo il peso della politica, la spesa era fuori controllo, si stava meglio probabilmente perché c'erano dei ritmi di lavoro più umani, c'erano più posti letto, una maggiore accoglienza per chi si rivolgeva al sistema sanitario, ma c'erano anche degli eccessi che forse fanno parte della centralizzazione, della statalizzazione, del ricondurre il controllo di un sistema complesso sotto dominio di un ceto politico, di una burocrazia. E quindi le risposte che riteniamo siano appropriate come usi sono di cercare un assetto della sanità in Toscana che non sia predeterminato, un programma per cui sarà in un modo o sarà in un altro, ma che sia il risultato di una serie di azioni basate sull'azione diretta, il fatto che il personale sanitario deve essere al centro del sistema sanitario, deve riprendersi il diritto di partecipare e di dire la sua. È importante fare coalizione, aggregarsi con le colleghe, con i colleghi, con magari anche con i pazienti e con le loro famiglie, per far valere che la sanità non è una merce, non è un qualcosa che viene dopo la burocrazia, ma è un aspetto fondamentale della vita delle persone, la salute. Il conflitto, che è il contrario della concertazione, secondo noi è qualcosa di positivo, perché comunque il conflitto produce un punto d'equilibrio nuovo tra le parti che sono in conflitto, e quindi può portare alla soluzione dei problemi. Insomma, una grande lezione dell'operaismo era anche quello, che il conflitto produceva un equilibrio nuovo, delle novità e dei miglioramenti. Ci sembra ancora valida. Quindi voi sapete che USI è un sindacato di matrice libertaria e quindi non è assolutamente favorevole all'intervento dello Stato nel risolvere le cose. Crediamo anzi che tante volte l'intervento dello Stato sia un problema. Noi, spero di averlo indicato chiaramente, troviamo nell'azione diretta, nel fare coalizione, nel riportare sistema sanitario sotto il controllo delle comunità locali, di chi lavora negli ospedali, di chi vive nei territori, l'obiettivo da perseguire subito, non dopo una crisi, perché un altro fatto che si vede in queste settimane è che viviamo in un sistema che è in crisi perenne. Cioè, ripeto, c'era una crisi l'estate scorsa perché mancava il personale, perché i turni sono saltati. Io non mi dimentico anni fa che ci fu trovato un buco di 420 milioni di euro. E se non era una crisi quella, era alla ASL di Massa Carrara. e poi non si sa com'è andata in effetti, però quello è stato un grosso momento di crisi. Ci saranno delle crisi future, sono già annunciate. Ci sarà in Toscana dal 25 al 50% di diminuzione di fatturato nel commercio, nel turismo, e dal settore privato tutto ciò colpirà anche la sanità, cioè colpirà l'insieme della società. Quindi in questa crisi perenne la soluzione è tornare all'azione diretta, alla solidarietà, al fare coalizione, dare anche la politica fuori dall'attività sindacale, perché tante volte l'attività sindacale rischia di diventare sindacalismo autonomo, quindi di difendere, che ne so, la categoria degli infermieri mentre ti sfasciano l'ospedale, però difendi la categoria degli infermieri e non va bene, ma rischia anche di essere un appendice subalterno della politica, quindi in concertazione più o meno i dirigenti, massimi dirigenti politici sono l'equivalente dei massimi dirigenti sindacali, l'opposizione ai sindacati concertativi diventa qualcosa che riassumo nella formula fare la vera CGIL, fare la vera UIL e quindi riproporre sul piano minoritario in minoranza delle ricette che secondo noi non sono un salto di qualità. Il salto di qualità è ripensare tutto da subito secondo dei nuovi criteri. Ecco, secondo te, un po' per concludere, perché sì, il tempo è limitato, questa situazione di grande crisi, come appunto dicevi te, non è che porta fuori niente di nuovo, però magari mette in evidenza in modo particolare delle contraddizioni già presenti. Questa messa in evidenza balzerà all'occhio non tanto delle persone più sensibili che già avevano ben presente la questione, ma è probabile che invece catturi l'attenzione di quelle persone che prima o non notavano queste problematiche oppure magari le tralasciavano. Può essere questa un'occasione per reinstaurare una situazione di conflitto e dunque di costruzione di un sistema che sia più partecipato dai lavoratori in modo attivo e dal basso, come dicevi te? Ecco, ti dico brevemente, c'è un hashtag che contesta un accordo fatto da Presidente della Regione e sindacati confederali. Sono degli aumenti salariali per il periodo dell'emergenza, ma in poche parole dice 26 giorni di lavoro ci porteranno da 520 a 1170 euro e poi aggiunge: chi è morto, chi morirà, chi si è ammalato e non potrà lavorare, quelli che lavoreranno dopo non meritano niente. Poi fa una polemica contro chi fa il telelavoro, perché una delle cose di questa situazione di crisi è stata anche che si è visto il divario tra i lavoratori che sono sul campo di battaglia e quelli che possono fare il telelavoro, che stanno negli uffici. E poi l'hashtag finisce invitando a stracciare la tessera di un sindacato, che non dico perché non è bello dirlo. Quindi che cosa porterà? Porterà del movimento. Per esempio c'è un'ordinanza di Rossi di ieri che mi hanno girato da Siena, degli scritti USI, che stranamente sembra ricalcare, almeno in certi punti, la pretesa del governatore della Lombardia Fontana di mandare i malati nelle case di riposo. Quindi la si legge e sembra di capire che in Toscana si sta sondando perché delle case di riposo si trasformino e accolgano i malati di Covid. Quindi anche nella crisi c'è una lezione che forse ci siamo dimenticati, e cioè che le cose sono sempre in movimento. Il lavoro vivo è qualcosa che per sua natura è ingovernabile. Lo sfruttamento si può fare solo sul lavoro vivo, sulla vita delle persone. E la vita delle persone in definitiva è ingovernabile. Cioè ci possono dare delle sanzioni se parliamo, possono far ammalare, far morire, è vero, ma c'è qualcosa che non si ferma mai. E quindi secondo me la ripresa del conflitto, la ripresa anche di posizioni che riguardino la vita delle persone, cioè prendere possesso della propria vita, diventare protagonisti della propria vita, è una delle possibili forme di uscita dalla crisi acuta di questi giorni, che si tramuterà nella crisi dei prossimi mesi, perché non è che la crisi finirà. Quindi sì, noi ci crediamo, siamo impegnati, andiamo avanti a studiare, a partecipare, a fare girare le informazioni. Ringraziamo la radio, mi scuso io del mio pesante accento apuano con le persone che ascoltano. Questo è, infatti. E grazie ancora dell'attenzione, speriamo ci siano altre occasioni di sentirci. Grazie a voi, quando volete siamo qua. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Something for all those of you who live in the past, and that's about 99% of you idiots out there. Dunque, torniamo in diretta per un ultimo, ancora qualche minuto, è molto tardi, sono andato molto lungo, ho anche iniziato più tardi del previsto, ma ne approfitto per darvi due suggerimenti sul palinsesto, dategli un occhio. Questa sera dalle 23 avremo i racconti di Quasi Mezzanotte, Legge del Lago, con Il Pensatoio, testo estratto da Ricette per il Caos. Domani alle 7.30, domani è giovedì 9 aprile, alle 7.30 avremo la diretta speciale, la mattina alle 10 ci sarà Passaggio a Nord-Ovest, la replica di Stampa Rassegnata. Per poi vedere appunto alle 11 uno speciale sanità con un'intervista a Fabio Macciardi, che sentirete anche tra poco, la manderò per la prossima oretta circa. Vi sarà il punto di vista del genetista, non riuscivo a farla entrare in tutto questo, quindi magari la mando stasera, così intanto che c'è se la sente. Poi domani andrà in replica alle ore 13, vi è il radiogiornale di Radio Spore, radiogiornale che viene prodotto dalla Radio Spore, è una giovane radio bolognese, una sorella si può dire di Radio Wombat, anch'essa funziona, va nell'etere, sulle frequenze 1359, e quindi fa parte del progetto di riappropriazione delle frequenze AM. Alle ore 16 La Fuga del Gatto, poi avremo alle 17 la diretta di In Punta di Pedale, alle 19 la diretta speciale come di consueto tutte le sere, e infine a 8 Hz alle 21.15. Dalle 23 ci saranno i racconti di Quasi Mezzanotte, che ancora non sono arrivati, diciamo così. Abbiamo questo spazio serale che vuole un po' raccogliere tutte le letture di chi ha voglia di mandarcele. Siamo un po' a corto, abbiamo punzecchiato i nostri lettori, ma sicuramente possiamo punzecchiare anche voi, ascoltatori e ascoltatrici, a leggere una qualsiasi cosa e a mandarla. Potete scriverci a postawombat@insiberia.net, noi vi risponderemo e vi spiegheremo come fare a mandare contributi a Radio Wombat. Altre cose da segnalare, sabato, venerdì, ma più o meno il palinsesto lo trovate sul sito wombat.noblogs.org. Se avete qualcosa da dirci di particolare, potete anche lasciarci un messaggio sulla messaggeria del Wombato, sempre dalla prima pagina dall'home del blog. Io direi che con questo vi lascio un ultimo un ultimo pezzo e poi vi sentirete l'intervista a Fabio Macciardi, che è, come dicevo prima, un genetista e si sta occupando proprio dell'elaborazione dei dati del Covid-19. Io vi lascio con Mammagramma e vi do la Parson Project. Wombat.